12 minuti dopo la mezzanotte, 19 maggio, tutto torna, ritornano anche quelle che sono così gli episodi spiacevoli, gli episodi brutti, alle volte anche dimenticati purtroppo, perché poi su queste cose poi... Ma noi non li dimentichiamo. Non li dimentichiamo. Infatti io che vengo anche perché, dal futuro, sì, ti dico che il 19-5 del 91... Che sarebbe oggi adesso? Che sarebbe oggi adesso? I fascisti uccisero Auro Bruni. Dove? Al cortocircuito, dandogli fuoco, al CSO alto, al cortocircuito, dandogli fuoco. Allora che succede? Succede che sono passati tanti anni. No, non sono passati tanti anni, però io, sai, la percezione del futuro, del presente, gli anni non ce l'ho, però queste cose rimangono sempre. Certo. Quindi noi o voi, perché io non so se nel 2022 sono vivo, però fatto sta che il 19 maggio del 2022 noi non ti dimentichiamo. Memoria antifascista, porta un fiore, una pianta per Auro Bruni, accesso a CSO a cortocircuito tutta la giornata, cioè, tutta la giornata in cui cosa facciamo? Viene proiettato dedicata ad Auro Bruni, si intitola Jamaica, che è uscito nel 98 però. Sì. E che poi è una cosa abbastanza molto delicata, perché questo personaggio, che è appunto ormai anche nel film è scomparso, viene chiamato Mauro, quindi è proprio un avvicinare il nome, con il nome a un ricordo molto semplicemente. E quello che possiamo dire, che appunto, come sosteneva anche lui, che con la memoria antifascista non si può dimenticare, però con questo c'è anche da dire che bisogna costruire anche un antifascismo, un antirazzismo, un antisessismo, quello che con un'unità all'interno delle città, dei quartieri, perché è ora di iniziare di nuovo a cercare di essere un'opposizione reale. Certo. Perché tutto quello che è successo, chiaramente poi, non con la pandemia, col pandemonio, ha lasciato dei brutti segni, soprattutto nella gente giovane, che è il futuro del movimento anticapitalista, eccetera eccetera. Ma poi tra l'altro ricordo un'altra cosa proprio di quel periodo, che proprio quando successe il fatto di Auro, succede quello che succede anche oggi, e da questo punto di vista le cose purtroppo sono cambiate abbastanza poco, cioè si cercò di alzare il polverone sulla vicenda, di confondere le acque, di sviare non tanto le indagini ma proprio il senso di quello che era successo. Posso dire una cosa molto semplice, essendo appunto di Cinecittà. Tanti anni fa, molti più anni di quelli appunto in cui è stato ucciso Auro, fu ucciso pure Roberto Scialaba, certo, in piazza. E anche rispetto a quello che diceva lui prima, anche qui succede il mescolare questo assassinio fatto poi, non rivendicato, ha fatto proprio di cui si è accusato, si è, certo, autoaccusato dai neofascisti avanti, proprio, sì, per scabolare dalla strage di Bologna del treno. E fu anche lì fatta una cosa molto semplice: deviarono il ragionamento dell'attentato, chiamiamolo così, cioè della morte di Roberto, dicendo che era una lite tra spacciatori a Don Bosco, che c'era chissà che cosa di mezzo, eccetera. E poi invece fu trovato quello che bisognava trovare, cioè la verità, che fu ammazzato da loro. Per fortuna c'erano all'epoca dei movimenti che avevano ben saldo e ben conosciuta come giravano le cose, la realtà, la controinformazione. Non un'indagine come fanno queste brave guardie, ma un lavoro di controinformazione. Certo. E poi per Auro non stessa cosa, identica, sono state deviate le cose che si sapevano tra di noi, eccetera, perché lui frequentava non da chissà quanto il posto, ma era poi una persona molto gioiale, molto tranquilla, e non aveva proprio nessuno di questi problemi di cui invece fu, tra virgolette, detto in maniera facile. Era della Romania, era dei casini, chissà che è successo, magari si sono sbagliati, e poi hanno pure dato fuoco a tutto per depistare l'omicidio, cioè cose allucinanti che però lasciano anche, purtroppo, fortunatamente, voglio dire, il tempo che lui è stato ucciso, fu rivendicato questo schifoso gesto dai disoccupati nazionalisti italiani, dalla Sicilia, una cosa di quelle proprio che lascia non a bocca aperta, ma ti fa rendere conto che comunque c'era qualcosa dietro di molto più pericoloso. Va bene, quindi domani tutta la giornata, sì, a partire più o meno prestissimo, perché tanta gente, dato che c'è anche chi fortunatamente lavora, magari non può fermarsi, e allora porta un fiore o una pianta, certo, passa un attimo a corto vivente antifascista, certo, e poi appunto siamo lì tutto il giorno. È un'occasione per non dimenticare, appunto, quella cosa che poi si tende a fare purtroppo in tempi molto più brevi di questo. Si dimentica già quello che è successo qualche mese fa, o le dichiarazioni che vengono fatte, insomma. Quindi un esercizio di memoria. Quindi domani 19 maggio, tutto il giorno a corto, proiezione del film Giamaica del 98. A rotazione, portate la vostra testimonianza, insomma, ricordo di Auro. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.